Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica, benvenuti a Magazine 24. Sfogliamo insieme settimanali, mensili italiani e stranieri, vediamo qualche articolo che vi possiamo consigliare o anche magari qualche curiosità. Ad esempio, partiamo da una curiosità, ma vi avverto subito, il lavoro è molto serio. Come facciamo a capire se una signora non è interessata a un certo argomento che stiamo affrontando o se proprio vuole che lo lasciamo perdere? Dobbiamo guardare come si comporta con la sua borsetta. Lo leggo da Donna Moderna, dice: un segnale di chiusura che può essere manifestato dalle donne in modo inconsapevole è portare davanti a sé o sulle ginocchia la borsa che prima tenevano di lato. La borsa, peraltro, proprio perché in genere è un oggetto morbido, un oggetto capiente, in questi casi diventa quasi una coperta di Linus, cioè il suo contatto può dare conforto. Allora, se una donna appoggia sulle ginocchia la borsa, sta lanciando un segnale di divieto d'accesso. L'argomento di cui si sta parlando, in altre parole, è tabù. Se invece la porta vicino al tronco, magari abbraccia la borsa, serve da autoconforto. Questo vuol dire che il tema ha toccato un nervo scoperto. Un gesto analogo a quello della borsa, magari non avendo a disposizione la borsa nelle vicinanze, consiste nell'afferrare un bicchiere e portarlo vicino all'altro braccio, esponendo così il gomito ed esibendo una chiusura verso l'altro. Da dove ho ricavato tutto questo? Dal dossier di Donna Moderna di questa settimana, che si occupa proprio del linguaggio del corpo. Forse qualcuno ha visto in televisione Lie to Me, questo telefilm basato appunto sulla capacità di riconoscere quando una persona sta mentendo sulla base di alcuni segnali inconsapevoli che comunque trasmettiamo nella nostra postura, nel tono della voce e altro ancora. Donna Moderna dedica appunto questo inserto, che è il suo inserto interno che viene fatto da staccare, proprio alla capacità di interpretare il linguaggio del corpo e come esercitare l'attenzione, quindi come riuscire anche a farsi dal retto o capire se le persone che ci stanno ascoltando ci stanno dando retta, naturalmente in presenza, non come stiamo facendo noi ora alla radio. Ma vi posso dire che l'attenzione o l'interesse di solito si vede dalla schiena, perché se chi vi sta ascoltando improvvisamente si mette a raddrizzare la schiena o porta il busto in avanti, bene, questa è una manifestazione di interesse. Invece ravviarsi i capelli con la mano da parte di un ascoltatore è un segnale di piacere. Questo perché il cuoio capelluto è ricco di vasi sanguigni e muoverli provoca un rilascio di endorfina, che è il corrispondente autoprodotto dal nostro organismo della morfina, cioè una sostanza antidolorifica e euforizzante. Anche la manipolazione di anelli, collane, braccialetti è un ulteriore modo per esprimere un senso di attenzione, ma anche proprio di piacere per quello che si sta ascoltando. Quindi non è detto che se la signora che sta con voi giocherella con il braccialetto si stia annoiando, anzi può voler dire esattamente il contrario. Ci sono dei consigli anche per quanto riguarda il lavoro. Ad esempio, nell'affrontare un colloquio c'è una differenza che mi pare rilevante tra uomini e donne. Conta molto, si dice, il comportamento espressivo del candidato, e questo lo potevamo immaginare. Una psicologa ha dimostrato che chi guarda negli occhi il selezionatore di frequente o perlomeno abbastanza spesso viene giudicato più positivamente di chi non lo fa. Quindi meglio guardare negli occhi, guardare in viso direttamente il selezionatore. Tuttavia, questo contatto visivo non deve essere eccessivo per quanto riguarda gli uomini, perché quelli che guardano troppo intensamente, cioè il 63% o più del tempo del colloquio, vengono poi valutati in modo negativo. Non così succede alle donne, perché le donne che fanno pressoché altrettanto, cioè il 60% della durata del colloquio, guardano in viso, guardano negli occhi l'interlocutore, normalmente vengono considerate invece meglio, vengono considerate amichevoli e socievoli. Tutto questo nell'inserto di Donna Moderna che trovate questa settimana in edicola. Cambiamo decisamente argomento, vi voglio segnalare che settimana prossima, invece, cioè la settimana che si apre domani, ci sarà la settimana sociale. La settimana sociale sarà dal 14 al 17 ottobre a Reggio Calabria, ne parla Famiglia Cristiana. Cosa sono le settimane sociali? Lo ricorda la stessa Famiglia Cristiana. Sono dei momenti di incontro organizzati già dal 1907 che via via discutono di temi sociali, contratti di lavoro, organizzazione sindacale. Ad esempio questo fu il tema della prima settimana sociale nel 1907, più di 100 anni fa. Poi nella seconda, nel 1908, si parlò di questioni agrarie, della condizione operaia, dell'educazione. Quest'anno si parla appunto della nostra, del nostro paese, diciamo, in difficoltà, e a presentare la settimana sociale è Edo Patriarca in un articolo di Alberto Bobbio su Famiglia Cristiana. L'articolo si apre con un concetto non positivo dello stesso Patriarca, che dice: ribadisco il concetto, siamo una media potenza declinante. Lo abbiamo scritto nel documento di base delle settimane sociali, lo sottolineo di nuovo senza drammatizzazione. L'Italia non andrà lontano se continua a disperdere energie e risorse in polemiche dal fiato corto. Edo Patriarca è il segretario delle settimane sociali dei cattolici italiani. Già a metà agosto, come ricorda Famiglia Cristiana, aveva denunciato il declino italiano e l'incompetenza della classe politica. Adesso, arrivato a pochi giorni dalla settimana sociale, fa il punto della situazione. Non cambia idea, scrive Bobbio, la crisi è politica e istituzionale. Chiedono a Patriarca: ma cosa la preoccupa di più? Dice: la divaricazione tra la realtà e i tentativi di affrontarla, che sono economicamente sterili e invece di dare delle prospettive di futuro rischiano di avviare ancora di più il declino. Come indicatori preoccupanti Patriarca vede la povertà in aumento e anche i corporativismi piccoli e grandi che calcano ogni scena. Queste non vengono risparmiate le critiche anche al mondo cattolico, che dice si fa fatica a trovare una vocazione all'impegno perché la fede viene vissuta come atto privato, la comunità ha quindi poco valore, e invece dovremmo appunto riflettere di più su questo aspetto come cattolici per trovare appunto lo stimolo a impegnarci di più anche nella politica, nell'aspetto pubblico. Tutto questo su Famiglia Cristiana in presentazione delle settimane sociali dal 14 di ottobre a Reggio Calabria. Cambiamo decisamente argomento, alleggeriamo molto, come si usa dire, perché non so se avete fatto caso, ma stanno un po' esplodendo, specialmente tra i giovanissimi, o meglio le giovanissime, dei curiosi braccialetti di plastica. Si chiamano silly bands, cioè si potrebbe dire braccialetti sciocchi, traducendo un po' liberamente. Vanity Fair ci spiega cosa sono e da dove vengono. Sono dei braccialetti colorati che piacciono ai ragazzi e alle star di Hollywood. Silvia Bombino lo racconta su Vanity Fair di questa settimana, e questi braccialetti hanno la particolarità che hanno delle forme particolari, cioè rappresentano il profilo di un animale, di un evento, di un oggetto particolare legato magari, non so, al mondo della musica o dello sport o quant'altro volete voi. Come si fa a riconoscere? Più o meno così: si chiede a chi porta il braccialetto: ma tu che forma hai? Se lo sfila e voilà, appare un cuore, un cane oppure un'altra forma ancora. Si chiamano silly bands, braccialetti sciocchi, funzionano così: si indossano e si tolgano, li si scambia, li si colleziona. Sono gesti ormai così diffusi che in alcune scuole americane li hanno addirittura vietati perché distraggono troppo gli alunni. Questa mania dei braccialetti, che sono in silicone, forse prima ho detto braccialetti di plastica ma chiedo scusa, ha conquistato prima i bambini dell'Ohio, tra l'altro, poi le star e poi i ragazzi di tutto il mondo. È nata a fine del 2008, è esplosa di fatto l'estate scorsa e è arrivata oggi. Ogni giorno dagli Stati Uniti vengono spedite circa 1500 scatole per 18.000 negozi in 25 paesi. E in Italia ci sono due marchi che stimano di aver venduto circa 30 milioni di bustine di questi braccialetti particolari in due mesi. Quindi dei braccialetti molto molto popolari, che stanno diventando molto popolari. Ogni produttore, poi racconta sempre Silvia Bombino, ha decine di tipi: ci sono quelli glitterati, quelli fosforescenti, quelli profumati, vanno naturalmente molto più forte tra le ragazzine che non tra i ragazzini. E si va poi dai soggetti generici, fiori, l'alfabeto, a quelli più customizzati, cioè più puntati su alcuni marchi. Ad esempio, non so, possono essere legati ai marchi Disney, ai personaggi Disney o ad altri fumetti. Pare che il braccialetto più ambito, riferisce sempre Vanity Fair, sia quello di Topolino. Tra i fan ci sono molti attori, come appunto appunto vi dicevo. Su Vanity Fair compare una foto con Sarah Jessica Parker, l'attrice tra l'altro di Sex and the City, che indossa proprio uno di questi silly band. Braccialetti colorati sono stati avvistati tra l'altro sul polso di Shakira, di Katy Perry, di Zac Efron e ancora di altri VIP che si sono appassionati a questo nuovo fenomeno del momento. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Nella puntata di ieri, nella puntata del sabato, abbiamo parlato delle bufale via web. Se l'avete ascoltata, stavamo traendo da un articolo dell'Espresso appunto questa segnalazione che con la diffusione dei social network si diffondono anche molto facilmente delle dicerie o delle calunnie che possono essere fastidiose. Tra l'altro, ricordavamo già ieri, proprio sul Sole 24 Ore, abbiamo condotto per diverso tempo un'inchiesta intitolata proprio www.verità per segnalare la difficoltà nella rete di affermare delle posizioni magari meno estremiste o più veritiere talvolta rispetto ad altre che sono più rumorose o addirittura non veritiere. Del potere diffuso della rete si occupa anche Harvard Business Review, che trovate in edicola con il Sole 24 Ore a ottobre, e si parla proprio a un certo punto in un articolo di Josh Bernoff e di Ted Shadler, che sono due analisti proprio dei consumi, del potere diffuso della rete, perché la rete naturalmente, oltre ad essere un luogo in cui possono diffondersi delle dicerie scorrette o addirittura delle cose false, è anche un luogo formidabile in cui i consumatori stanno ritrovando potere. E vengono citati degli aspetti che sono curiosi, la storia ad esempio del musicista Dave Carroll, che aveva preso un aereo con la United Airlines ed era furioso perché l'azienda si era rifiutata di risarcire i danni alla chitarra. La chitarra aveva viaggiato come bagaglio nella stiva, era stata danneggiata e il musicista pretendeva i danni. Cosa ha fatto? Ha pubblicato su YouTube un video con un brano orecchiabile che ha per titolo La United rompe le chitarre. Ci sono state 8 milioni di persone che hanno guardato questo filmetto, che non ha fatto decisamente del bene, così scrivono appunto Bernoff e Shadler su Harvard Business Review al marchio United. Peraltro questo tipo di reazione non è un caso isolato, perché c'è una mamma blogger, cioè una signora che ha un blog, si chiama Heather Armstrong, è rimasta così scontenta perché la sua lavatrice si è rotta e l'azienda non è stata in grado di ripararla, di mandare una persona capace di ripararla, che ha esortato il milione e oltre di persone che la seguono su Twitter a non comprare mai questa lavatrice. Per inciso la marca è la Maytag. Poi ci sono i sostenitori di Greenpeace che hanno ingolfato la pagina Facebook di Nestlé protestando contro le politiche della società poco rispettosa, secondo loro, appunto, delle esigenze ambientali. E poi ci sono anche i dipendenti che possono in qualche modo danneggiare o aiutare la società appunto lavorando sui social network e su internet. Si cita tra l'altro, poi vi rimando per gli altri casi e anche sulle possibili soluzioni, le tendenze future, proprio Harvard Business Review, la trovate, ripeto, con il Sole 24 Ore. Si cita il caso della Best Buy, che ha 2500 dipendenti iscritti a un programma che permette loro di vedere le lamentele che i clienti mettono su Twitter e di poter anche rispondere, quindi intercettano in qualche modo il cliente non da un ufficio reclami tradizionale, ma invece proprio da uno di questi social network, in questo caso Twitter, e si attivano per aiutarlo per risolvere il suo problema. Questo per dire come appunto la rete, i social network, stiano cambiando anche le relazioni abituali tra imprese e clienti. Certo, i social network non sono un tema che facilmente possiamo trovare, ad esempio, su Storica. Storica in edicola ad ottobre. Tra gli altri servizi interessanti ve ne voglio segnalare due. Uno riguarda le università durante il Medioevo e quanto e come studiavano appunto gli studenti dell'epoca. Tra l'altro c'erano facoltà che duravano anche 10 o più anni, con il che insomma si rivaluta quasi la certa lunghezza dei corsi di studio odierna. E poi c'è una interessante storia della forchetta, l'invenzione della forchetta e delle buone maniere a tavola in generale. Ma cominciamo dalla parte delle università. Ad esempio, le università più prestigiose nel Medioevo erano Bologna e Padova in Italia, Oxford, Cambridge in Inghilterra, Parigi, Tolosa in Francia. C'erano di solito quattro facoltà, erano le arti liberali, il diritto, la medicina e la teologia, ma gli studenti erano abitualmente della stessa provenienza geografica, perché così si riducevano i litigi e le intolleranze che potevano sorgere tra allievi di nazioni diverse. Questa è l'opinione appunto delle università dell'epoca. A Bologna, intorno al XIII secolo, prendo sempre da Storica di questa settimana, c'erano circa un migliaio di studenti universitari. Si studiava moltissimo, le discussioni si protraevano anche durante la notte. Gli studenti erano soltanto maschi, prendevano poi lo status di chierici per non essere soggetti alla giustizia civile, che poteva colpirli anche per loro intemperanze, diciamo, nel comportamento. I professori anche erano esclusivamente maschi nel XIII secolo. Però c'erano state già delle deroghe importanti proprio nella stessa Università di Bologna, quindi donne che potevano insegnare. Le lezioni e comunque la vita dell'universitario si svolgeva esclusivamente in latino, non si poteva parlare nessun'altra lingua, si ricevevano delle multe se non si parlava in latino e solitamente era vietatissimo prendere appunti durante le lezioni, perché gli studenti dovevano imparare a memoria e poi poter restituire nel corso dell'unico esame finale dell'epoca quanto avevano imparato. Quindi esistevano sì delle deroghe, ma in linea di massima la regola era che fosse vietato trascrivere appunto quello che il professore stava dicendo. Esistevano però già le dispense anche all'epoca. Questo nel numero di Storica di questo mese. L'altro tema che avevo annunciato, l'invenzione delle buone maniere a tavola, con l'invenzione appunto forse la più divertente da raccontare nel poco tempo che ci resta, quello della forchetta, perché la forchetta sostanzialmente è arrivata intorno al 1500 in Italia e poi ha raggiunto la Francia e poi via via si è andata diffondendo, ma inizialmente chi usava la forchetta veniva deriso, anzi veniva proprio schernito perché si riteneva fosse un segno di affettazione che non era proprio tollerabile. E, tra l'altro, venivano anche scherniti i tentativi ad esempio di afferrare i ceci o i piselli con la forchetta. Sappiamo che non è un'esperienza facilissima, ci va un pochino di pratica. Lo sdoganamento, come si direbbe ora, della forchetta è più tardivo, avviene solo quasi nel 1800, ancora al matrimonio della figlia di Maria Teresa d'Austria il sovrano si ostinava infatti a mangiare con le mani e quindi non utilizzava la forchetta. Questo e molto altro nell'articolo di Francesca Prince che trovate su Storica di questo mese. E con questa segnalazione d'altri tempi, si potrebbe dire, concludiamo la nostra puntata di oggi. Io vi auguro una buona domenica. Buona domenica anche a Filippo Aureggi, che questa mattina mi ha assistito in regia. Buona domenica anche ad Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che potete risentire questo e tutti gli altri programmi di Radio 24 sul nostro sito www.radio24.it. A risentirci.